Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Athos si fece pensoso e D'Artagnan lo vide via via impallidire. Era in quello stadio di ubriachezza in cui gli ubriaconi volgari stramazzano addormentati. Lui invece fantasticava a voce alta senza dormire. Quel sonnambulismo dell'ubriachezza aveva qualcosa di terrificante. «Lo volete sentire il mio racconto?» chiese Athos. «Ve ne prego», disse D'Artagnan. Un mio amico, capite? Non io», disse Athos interrompendosi con un tetro sorriso. «Un conte della mia provincia, ossia del Berry, nobile come un dandolo o un Montmorency, si innamorò a 25 anni di una giovinetta di 16, bella come le grazie. Attraverso l'ingenuità dovuta ai suoi anni traspariva un temperamento ardente, un temperamento non di donna, ma di poeta. Ella non piaceva, inebriava. Viveva in un piccolo borgo con il fratello che era curato. Entrambi erano giunti nel paese, non si sapeva da dove, ma vedendo lei così bella, il fratello così pio, nessuno pensava a chiedergli d'onde venissero. Si diceva peraltro che fossero di buona famiglia. Il mio amico, che era il signore del paese, avrebbe potuto sedurla o prenderla con la forza. A suo piacimento era il padrone. Chi sarebbe venuto in soccorso di due forestieri, di due sconosciuti? Purtroppo era galantuomo. La sposò. Stolto, stupido, imbecille. Ma perché, se l'amava? Chiese D'Artagnan. Aspettate, disse Athos. Lui la portò nel suo castello e ne fece la prima dama della provincia. E bisogna renderle giustizia. Riusciva ad essere all'altezza del suo rango. Ebbene, un giorno che era a caccia con il marito, continuò Athos a voce bassa e con grande rapidità, ella cadde da cavallo e svenne. Il conte si precipitò in suo soccorso e, poiché le vesti la soffocavano, gliele squarciò con il pugnale e le scoprì la spalla. Indovinate cosa aveva sulla spalla? D'Artagnan, disse Athos, scoppiando in una risata. Come posso saperlo? Chiese D'Artagnan. Un giglio, il marchio. E di un sorso Athos vuotò il bicchiere che teneva in mano. Orrore! Esclamò D'Artagnan. Che dite mai? La verità, mio caro. L'angelo era un demonio. E cosa fece il conte? Chiese D'Artagnan. Il conte era un gran signore che aveva nelle sue terre diritto di vita e di morte. Finì di lacerare le vesti della contessa, le legò le mani dietro la schiena e la impiccò a un albero. «Cielo, Athos! Un assassino!» esclamò D'Artagnan. «Sì, un assassino, non altro!» disse Athos, pallido come la morte. «Ma a quanto pare mi lasciano senza vino!» E afferrata per il collo l'ultima bottiglia rimasta, l'accostò alla bocca e la vuotò d'un fiato, come avrebbe fatto di un bicchiere normale. Poi lasciò cadere il capo sulle mani e D'Artagnan rimase innanzi a lui in preda al terrore. «Questo mi ha guarito dalle donne belle, poetiche e innamorate», aggiunse Athos, risollevandosi senza più darsi pena di continuare l'apologo del conte. «E così è morta?» balbettò D'Artagnan. «Perbacco!» disse Athos. «Su, date qua il bicchiere del prosciutto briccone!» gridò Athos. «Non possiamo più bere!» E suo fratello, soggiunse timidamente D'Artagnan, ne chiesi notizie per farlo impiccare a sua volta, ma mi aveva preceduto. Aveva lasciato la parrocchia il giorno prima. Si è almeno saputo chi fosse quel miserabile? Certo, il primo amante e il complice della bella, una degna persona che aveva finto di essere curato forse per maritare la sua amante e assicurarle una posizione, sarà stato squartato, lo spero. Mio Dio, fece D'Artagnan sconvolto da quell'orribile avventura. Su, D'Artagnan, mangiate questo prosciutto, è squisito. D'Artagnan era rimasto stordito dalla terribile confidenza di Athos, anche se in quella rivelazione parziale molte cose gli sembravano ancora oscure. Prima di tutto era stata fatta da un uomo completamente ubriaco a un altro che lo era quasi. Pure, nonostante la nebbia che due o tre bottiglie di Borgogna fanno salire al cervello, D'Artagnan, svegliandosi l'indomani mattina, aveva presente ogni parola di Athos come se gli si fossero impresse nella mente man mano che a lui uscivano di bocca. Quel dubbio gli diede un desiderio ancora più vivo di giungere a una certezza e passò nella camera dell'amico deciso a riprendere la conversazione della sera precedente, ma trovò Athos perfettamente in sé, ossia come il più perspicace e impenetrabile degli uomini. D'altronde il moschettiere, dopo aver scambiato con lui una stretta di mano, prevenne le intenzioni dell'amico. «Ero ubriaco fradicio ieri sera, mio caro D'Artagnan», disse. «Me ne sono accorto stamane dalla lingua, che era ancora molto spessa, e dal polso ancora agitatissimo. Scommetto d'aver raccontato un mucchio di stramberie». E così dicendo guardò l'amico così fisso da metterlo in imbarazzo. «Ma no», rispose D'Artagnan, «e se ben ricordo, non avete detto niente di straordinario». «Ah, mi stupite! Credevo di avervi raccontato una storia quanto mai lacrimevole». E guardava il giovane come se avesse voluto leggergli nel più profondo del cuore. «Per dinci», disse D'Artagnan, «a quanto pare ero ancora più ubriaco di voi, visto che non ricordo un bel niente». Athos non fu pago di quelle parole e aggiunse: «Avrete certo notato, amico mio, che ognuno ha un suo genere di ubriachezza, triste o gaia. Io ho il vino triste e una volta brillo, la mia mania è quella di raccontare tutte le storie lugubri che la mia stolta balia mi ficcava in testa. È il mio difetto, ma a parte questo, sono buon bevitore». Il giovane stette muto. Cambiando improvvisamente discorso, Athos disse: «A proposito, vi ringrazio del cavallo che mi avete portato. È di vostro gusto?» domandò D'Artagnan. «Sì, ma non era un cavallo da strapazzare. Vi ingannate. Ho fatto su di lui 10 leghe in meno di un'ora e mezzo e non se n'è risentito più che se avesse fatto il giro di Plaza Saint-Sulpice». «Allora mi state facendo venire dei rimpianti». «Dei rimpianti?» «Sì, me ne sono disfatto del cavallo». «Come?» «Stamattina mi sono svegliato alle 6, voi dormivate come un masso e non sapevo che fare. Ero ancora istupidito della bisboccia di ieri. Sono sceso nella sala e ho adocchiato uno dei nostri inglesi che contrattava un cavallo con un sensale, poiché ieri gli era morto il suo d'un colpo apoplettico. Mi sono avvicinato a lui e vedendo che offriva 100 pistole... per un sauro dorato, per Diana, gli ho fatto: caro gentiluomo, anch'io ho un cavallo da vendere». «E anche molto bello», rispose lui. «L'ho visto ieri. Vi pare che valga 100 pistole? «Sì, E volete darmelo a quel prezzo? No, ma me lo gioco. Ve lo giocate? Sì, a dadi. Detto fatto, ho perduto il cavallo. In breve tempo, Athos e D'Artagnan giunsero a Crèvecœur. Scorsero di lontano Aramis, malinconicamente appoggiato al davanzale della finestra, che guardava la polvere sollevarsi all'orizzonte. «Oi là, Aramis! Che diavolo fate lì?» gridarono i due amici. «Ah, siete voi, D'Artagnan! Siete voi, Athos!» disse il giovane. «Stavo meditando con quale rapidità se ne vanno i beni di questo mondo, e il mio cavallo inglese, che si allontana ed è appena scomparso in un turbine di polvere, era l'immagine vivente della fragilità delle cose terrene. La vita stessa può essere racchiusa in tre parole. Erat, est, fuit. E che significa, a conti fatti?» chiese D'Artagnan, il quale cominciava a intuire la verità. «Il che significa che mi sono lasciato abbindolare in un affare. 60 Luigi, un cavallo che, da come fila, può fare al trotto 5 leghe all'ora.» D'Artagnan e Athos scoppiarono a ridere. «Mio caro D'Artagnan», disse Aramis, «non prendetevela troppo con me, ve ne prego. Necessità non ha legge. D'altronde sono il primo punito, perché quel maledetto sensale mi ha derubato di 50 luigi almeno. Ah, voi altri sì che vi amministrate saggiamente. Venite sui cavalli dei vostri servi e fate condurre i vostri cavalli di lusso a mano, ad agio e a piccole tappe.» Nello stesso momento un carro coperto, che da alcuni istanti era spuntato sulla via di Amiens, si fermò. E si videro sbucare fuori Grimaud e Planchet con le selle sulla testa. Il carro tornava vuoto a Parigi e i due servi, per pagarsi il trasporto, si erano impegnati a dissetare il conducente lungo la strada. «Chi è mai questo?» chiese Aramis vedendo quella scena. «Solo le selle. Capite adesso?» disse Athos. «Amici, proprio come me. Ho conservato i finimenti per istinto. Su, Bazin, portate i miei finimenti nuovi vicino a quelli dei signori.» «Dunque, amici miei», aggiunse Aramis, «torniamo a Parigi? Benissimo, sono pronto. Rivedremo quel bravo Porthos, tanto meglio. Non credereste che mi mancava quello scioccone? Certo, lui non avrebbe venduto il cavallo fosse anche per un regno. Vorrei già vederlo in groppa sulla sua sella. Sembrerà il Gran Mogol, ne sono sicuro.» Venne fatta una tappa di un'ora per lasciare riposare i cavalli. Aramis saldò il conto, collocò Bazin sul carro con i compagni e si misero in cammino per andare a ritrovare Porthos. Lo trovarono in piedi, meno pallido di come l'avesse trovato D'Artagnan durante la sua prima visita, e seduto a una tavola dove, per quanto solo, era apparecchiato un pranzo per 4 persone. «Ah, per Dio!» disse Porthos alzandosi. «Giungete in buon punto, signori. Ero proprio alla minestra e pranzerete con me. Ma questo pranzo non era per voi soltanto, mio caro Porthos», disse Aramis. «No», rispose quegli, «aspettavo alcuni gentiluomini del vicinato che orora mi hanno fatto avvisare che non verranno. Li sostituirete voi e non ci perderò nel cambio. Olà, Mousqueton, le sedie, e si raddoppino le bottiglie.» «Sapete quel che stiamo mangiando qui?» disse Athos dopo 10 minuti. «Perdinci», rispose D'Artagnan. «Io mangio del vitello lardellato di cardoni e di midollo.» «E io filetti d'agnello», disse Porthos. «Sbagliate tutti, signori», ribatté Athos. «Mangiate del cavallo.» «Cavallo!» fece Aramis con una smorfia di disgusto. Soltanto Porthos non aprì bocca. «Sì, cavallo, vero Porthos, che stiamo mangiando del cavallo, forse perfino con le gualdrappe.» No, signori, ho tenuto i finimenti, disse Porthos. Siamo della stessa pasta, disse Aramis. Si direbbe che ci siamo dati la parola. Che volete, ribatté Porthos. Quel cavallo mortificava i miei visitatori e non ho voluto umiliarli. Ora ve lo giuro, il governatore della provincia, uno dei gentiluomini che aspettavo oggi a pranzo, mi sembrava che lo desiderasse talmente che gliel'ho regalato. Regalato? Esclamò D'Artagnan. Ma sì, Dio mio, sì, regalato, è la parola. Perché valeva certo 150 luigi e quel ladro ha voluto pagarmelo solamente 80. Senza la sella, chiese Aramis. Sì, senza la sella. Noterete, signori, disse Athos, che il miglior contratto fra tutti noi l'ha fatto Porthos. Seguì un coro di risate che scombussolò il povero Porthos. Ma subito gli fu spiegata la ragione di tanta ilarità da lui condivisa fragorosamente secondo la sua abitudine. Sicché siamo tutti al verde, disse D'Artagnan. Ho trovato così buono il vino di Spagna di Aramis, fece Athos, che ne ho fatto caricare una sessantina di bottiglie sul carro dei servitori e questo mi ha squattrinato parecchio. E io, disse Aramis, figuratevi che avevo dato fino all'ultimo soldo alla chiesa di Montdidier e ai gesuiti di Amiens. Inoltre avevo preso degli impegni che sono stato costretto a mantenere, delle messe ordinate per me e per voi, signori, le quali, sono certo, ci gioveranno moltissimo. E io, disse Porthos, credete che la mia slogatura non mi sia costata niente? Pagate le spese, mi resteranno una trentina di scudi. E a me una decina di pistole, disse Aramis. Su via, disse Athos. A quanto pare noi siamo i cresi della combriccola. Quanto vi resta delle vostre 100 pistole, D'Artagnan? 25 pistole. E io, disse Athos, traendo di tasca qualche spicciolo, io, voi, niente. Adesso calcoliamo quanto possediamo in tutto. Porthos, 30 scudi. Aramis, 10 pistole. Voi, D'Artagnan, 25. In tutto fa 475 livre, disse D'Artagnan, che calcolava come Archimede. Giunti a Parigi, ne avremo ancora 400, aggiunse Porthos, più i finimenti. «Ma i nostri cavalli da squadrone?» chiese Aramis. «Ebbene, con i 4 cavalli dei servi ne otterremo 2 per noi che tireremo a sorte. Con le 400 livre ne compreremo mezzo per uno agli appiedati. Poi i rimasugli delle nostre tasche li daremo a D'Artagnan, il quale ha la mano fortunata e andrà a giocarli nella prima bisca che capita. Ecco fatto. Allora pranziamo», disse Porthos. «Si sta freddando tutto». I 4 amici, ormai più tranquilli sul loro futuro, fecero onore al pranzo, i cui resti furono lasciati a Mousqueton, Bazin, Planchet e Grimaud. Al suo arrivo a Parigi, D'Artagnan trovò una lettera di Michel de Treville, il quale lo avvertiva che, dietro sua richiesta, il re gli aveva accordato il favore di entrare nei moschettieri. Era quello a cui D'Artagnan aspirava più di ogni altra cosa al mondo, a parte, si intende, il desiderio di ritrovare Madame Bonacieux. Egli si precipitò quindi festante dai camerati da lui lasciati circa mezz'ora prima e che trovò desolati e preoccupatissimi. Erano riuniti a consiglio in casa di Athos, il che era indizio sempre di circostanze d'una certa gravità. Monsieur de Treville li aveva fatti avvertire in quel momento che Sua Maestà aveva ferma intenzione di aprire la campagna il 1° maggio, ragion per cui dovevano pensare immediatamente ad equipaggiarsi. «E a quanto valutate che costino gli equipaggiamenti?» chiese D'Artagnan. Oh, non c'è che dire, rispose Aramis. Abbiamo fatto i conti con una parsimonia da spartano e a ciascuno occorrono 1500 livres. A me pare, disse D'Artagnan, che con 1000 livres ciascuno, è vero che non parlo da spartano, ma da procuratore. La parola procuratore scosse Porto. Sto, ho un'idea, disse. È già qualcosa. Io non ne ho neppure l'ombra, disse freddamente Athos. Quanto a D'Artagnan, poi la felicità di essere dei nostri lo fa impazzire. 1000 livres. Dichiaro che a me soltanto ne occorrono 2000. 4 per 2, 8, interloquì Aramis. Allora ci occorrono 8000 livres per il nostro equipaggiamento. Però abbiamo già le selle. E in più, disse Athos, aspettando che D'Artagnan, il quale andava a ringraziare Monsieur de Tréville, avesse chiuso la porta, in più quel bel diamante che brilla al dito del nostro amico. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello, @rai.it.